Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Non posso ancora guidare la moto, ma non importa. Rischio. Mancano solo 15 giorni al compleanno. E se mi fermano, cosa faccio? Propongo a mia madre di fare da passeggero. Lei gli anni per guidare la moto ce li ha. Al massimo faccio guidare lei, anche se non è capace. Mia mamma aveva 82 anni. La sua testa e il suo fisico erano molto sofferenti. Ogni volta che se la sentiva, la caricavo in macchina e la portavo a zonzo per le strade percorse da lei infinite volte, ma che le risultavano nuove di zecca. Una domenica mi dice che voleva andare a Cabruna, villa sperdutissima sugli Appennini piacentini, dove da giovane trascorreva le vacanze estive. Io non avevo minimamente idea di dove fosse e sono partita assolutamente convinta che mai saremmo arrivate. Invece un vai a destra, ora dritto, ora a destra, sali, curva, svolta. Ecco, uno dopo l'altro ci siamo trovate davanti alla casa vista da me sempre solo in foto, con il nome inciso sul pilone a fianco dell'ingresso. E mia mamma che dice, vedi che non sono poi così rincoglionita. Mi resterà impresso per sempre, insieme alle lacrime di circostanza. C'è un numero di telefono che oggi tutte le mamme all'ascolto devono semplicemente digitare, no? Sono partito grosso, lo so, devono impregnarsi nella memoria, no, semplicemente digitare sul proprio telefono, che è 800240024. La storia che vi ho appena raccontato è una storia molto breve che è arrivata sul profilo Facebook del programma e che c'è scritto Susanna, perché ha a che fare con la storia che raccontiamo oggi, che è la storia di Luca, in cui lui semplicemente porta la mamma a zonzo in giro per le autostrade per poter guidare una moto. Questa però è un'altra storia. Noi invertiamo i ruoli oggi, chiediamo a tutte le mamme che sono all'ascolto di prendere il telefono, di fare l'800240024 e di raccontarci il viaggio che hanno fatto con il proprio figlio. Se ne hanno fatto più di uno, facciamo il viaggio migliore che hanno fatto con il proprio figlio, ma da soli, da sole. Voi e il vostro bambino o ragazzo o uomo, comunque mamme col figlio in viaggio. Vogliamo sapere dove siete andate, quanto è durato il viaggio, ma soprattutto come è andato quel viaggio. 800240024. Dovesse chiamare mia madre, probabilmente racconterebbe di quando l'ho portata in Vespa da casa mia in zona ticinese allo stadio di San Siro per sentire Bruce Springsteen, il concerto di Bruce Springsteen, ed è salita per la prima volta in Vespa, oltre ad essere andata per la prima volta allo stadio, per la prima volta a vedere un concerto, ma quella è un'altra storia. Mamme all'ascolto, mamme al telefono, 800240024, il viaggio che avete fatto con vostro figlio. C'è sempre anche un po' di malinconia nel ricordo di quel viaggio, anche se solo stato ieri. 800240024, qui si parla di viaggio, questa è la storia di Luca e della sua mamma. Fino all'età di 17 anni ho usato la bicicletta per andare sia a scuola sia alle ripetizioni dalla zia professoressa. Ed in entrambi i casi era istintivo per me percorrere il tratto di strada pensando di farlo nel minor tempo possibile rispetto al giorno prima. A 17 anni ho acquistato un motorino di terza mano. Non andava. Aveva sempre dei problemi. Ed io tentavo di elaborarlo, ma non c'era niente da fare. Era troppo piccolo per me. Sembrava un elefante su una 500. L'anno dopo mi sono pagato la patente A senza avere la moto da guidare. Mi sono comprato un casco, che a quei tempi non era obbligatorio, e ho aspettato. Dopo 4 mesi mi comprano la moto e, finito il rodaggio, mi sono messo su una strada dritta e l'ho lanciata alla massima velocità. Quando sul contachilometri ho letto 130 all'ora, mi sembrava di essere l'uomo missile. Ero entusiasta e lo raccontavo a tutti i miei compagni di classe, ma a loro non interessava. Erano più per il calcio, che a me invece non interessava. Mi facevo delle gite solitarie sulle colline della mia provincia, fantasticando di curve affrontate alla massima velocità o di dossi con salti lunghissimi. E poi tornavo a casa talmente entusiasta che quasi la notte non dormivo. Potevo anche permettermelo perché frequentavo l'università e in più lavoravo in piscina come istruttore di nuoto e bagnino. Iniziavo a lavorare non prima delle 9. A 18 anni prendo la patente dell'auto, ma non ho l'auto, se non quella di famiglia. Raccimolato qualche soldo, decido di cambiare moto. Una stradale. Me la ricordo, in vetrina da un concessionario. Era bellissima. 4 cilindri cromati, serbatoio lucido. Entro È un 400 di cilindrata, il che non mi permette di guidarla perché non ho ancora 21 anni. E a quei tempi, se non avevi compiuto 21 anni, non potevi guidare moto al di sopra dei 350 di cilindrata. Ma non importa, mancano solo 2 mesi al compleanno. Un giorno decido di fare un viaggio per andare nella casa di famiglia al mare, ma non posso guidare la moto. Non importa, rischio. Mancano 15 giorni al compleanno. E se mi fermano? Propongo a mia madre di fare da passeggero. Lei gli anni per guidare la moto ce li ha. Al massimo faccio guidare lei, se ci ferma la polizia, anche se non è capace. Oh, and you can trust me, I know you made the hardest part. Oh, mother, don't worry, there's still a part of me that is worth. Si parte, autostrada della Cisa. La moto è bellissima, funziona come un orologio. Gira alto un rumore eccitante. Ogni tanto mi sento dare un pugno sul casco. È mia madre che, aggrappata al portapacchi posteriore, ha la sensazione che io stia andando troppo veloce. Ed è vero. Il codice della strada non impone limiti di velocità e sui rettilinei vedo i 160 all'ora. Nelle curve piego un po' troppo il limite sopportabile da mia madre, quindi rallento per far tornare i battiti del cuore ad un livello accettabile. Poi però lentamente riprendo velocità e la storia si ripropone con il mio limitatore di velocità umano che mi picchia i pugni sul casco. Si arriva alla casa al mare, io sono eccitatissimo dal viaggio. Mia madre più di me, anche se mi dice che sono un disgraziato ad andare così forte. Mi faccio 2 giorni di mare e mi rompo il terzo raggio della mano destra. Ma non è un problema, la mano non si gonfia e fa solo un po' male quando chiudo il pugno. Si parte per il viaggio di ritorno. È pomeriggio inoltrato, c'è ancora il sole. Si viaggia bene e riesco a tenere una buona media nonostante qualche dolorino. Mia mamma non dice nulla, forse si è rassegnata. Iniziano le gallerie e fuori da una di queste trovo un rallentamento e in alcuni tratti ci si deve fermare. Riesco però a risalire la coda. Mi trovo davanti un trasporto eccezionale che occupa entrambe le corsie, con la polizia stradale che blocca tutti. Si procede a 30 km all'ora, uno strazio. La mano inizia a farmi male perché devo continuare ad azionare il freno per rallentare. I poliziotti continuano a lanciarmi occhiate e mia madre mi dice di stare calmo, che se mi fermano sono dolori. Io però sono irrequieto. L'idea di dover fare ancora 60 km così e con il dolore alla mano non mi va. Così mi sposto all'estrema sinistra, nella corsia di sorpasso. E noto che se volessero i poliziotti potrebbero far passare almeno i motociclisti. Ormai siamo un gruppo di 10 moto che si sono accumulate e chi più chi meno siamo impazienti. I poliziotti tengono la situazione sotto controllo e stranamente continuano a guardare solo i miei spostamenti. Finalmente, dopo aver comunicato con il trasporto eccezionale, questo si sposta all'estrema destra della corsia e vedo che il poliziotto mi fa segno di passare. Scalo la marcia e prima di lasciare la frizione faccio aumentare i giri del motore e vado. Ho tutta la Cisa davanti senza una macchina e quando mi ricapita. Sono il primo a passare e sento mia madre che mi batte sul fianco e mi dice: gli hai rotto talmente le scatole che ti hanno fatto passare. Dietro di me le altre moto. Strada libera, piena di curve veloci, nessun limite di velocità. Arrivo a casa e si ride tantissimo parlando del viaggio. Ricordo che quella notte non ho dormito. Ricordo di aver rivisto tutto il film del viaggio e di aver sorriso tantissimo. La mano, sì, la mattina dopo mi hanno accompagnato all'ospedale. 20 giorni di gesso e mano bloccata. Ma non importa. Mi avrebbero fatto compagnia i ricordi del viaggio e dopo 20 giorni avrei potuto guidare la moto perché avrei compiuto 21 anni. We'll be right back. E usciamo da questi due pezzi che si intitola entrambi Mother, solo che sono diversi, sono canzoni diverse, cantate da persone diverse, non ultimo da John Lennon. 800240024, oggi facciamo una cosa che non facciamo da un po', ed è aprire i telefoni a tutte le mamme che hanno voglia di raccontarci qual è stato il più bel viaggio che hanno fatto con loro figlio, che sia l'ultimo oppure no, un bel viaggio. Prima però vorrei dedicare due parole a Luca, perché Luca purtroppo non è potuto intervenire, però io me lo immagino così. Luca, un duro, un motociclista, un biker, uno che si veste col chiodo, si compra la moto 400 e poi va al mare con la mamma dietro. Se la carica perché dice, non si sa mai, va bene, non si sa mai se ci ferma la polizia, lei ha l'età per guidare la moto, gliela faccio guidare a lei. Già questo è, sei un genio assoluto. Immagino la mamma che mi è in prima, cambia mamma, cambia. E invece no, è andato tutto a posto nonostante i pugni sul casco. Luca, dove sei? Ma soprattutto mamma di Luca, dove sei? 800240024. Arriva invece un messaggio, prima ancora delle telefonate, di una mamma che, se è una mamma è un genio, se è un figlio che fa interessare la mamma va bene uguale. Mio figlio mi ha portato ad Amsterdam, che fattanza. Questo è il commento della presunta mamma al 349 238 6666. Apriamo però il telefono, Paolino, toglimi sta base e sentiamo Claudia da Padova. Pronto Claudia? Pronto. Ciao Claudia, come stai? Ciao, bene bene, grazie. Tu posso chiederti quanti anni hai? Io 48 anni. 48, è un figlio di? 20. 20 secchi proprio. Sì sì. Che sì, è un'età sì. Difficile. È un'età difficile, ma è un'età bellissima, perché beh, l'ho riscoperto quest'estate. Dove siete stati? È da un pezzo che io e i miei figli non andiamo via insieme, perché capisci che a questa età già un po' che ci siamo persi. Scusami, ad esempio, nel 2013 o comunque negli anni 2000, a che età si comincia ad andare in vacanza da soli? Ma forse a 15 anni, da queste parti. Cioè dalle tue parti, cioè nel nord-est, insomma. Sì. Quindi erano almeno 5 anni più o meno che non facevate una vacanza insieme. E com'è andata? Sì. Beh, era stata una vacanza, è stato un piccolo viaggio, una giornata al mare. Io di solito vado in montagna, preferisco la montagna, però ho condiviso questa giornata con lui. Siamo partiti insieme, tra l'altro a pochi chilometri da qui, insomma, il nostro mare Adriatico ce l'abbiamo a un soffio. Però, ecco, questa strada, tra l'altro in una giornata di grande traffico, è stato bellissimo averlo di fianco. Io guidavo e lui mi faceva, lui ha la patente, però, insomma, mi ha lasciato guidare. E senti, c'è qualcosa che hai scoperto di lui in queste 24 ore insieme? Sì, sì. Tipo? È stato bellissimo che è proprio, mi dà sicurezza. Benissimo. È stato bello avere vicino le sue spalle, il fatto che mi facesse da navigatore, mi sono sentita sicura. Di solito il contrario, certo. Però certo. Di solito il contrario, e allora mi ha fatto pensare quando era piccolo, la sicurezza gliela davo io. Ti ringrazio Claudia, buona giornata. Grazie, che ciao. Che poi alla fine la mamma sempre un po' torna lì, mi ha fatto ricordare quando era piccolo. Andiamo da Erika a Trieste, pronto Erika? Sì, ciao, buonasera. Ciao, buonasera, come stai? Bene, bene, grazie. Erika, quando sei stata in vacanza con quale figlio? Maschio e femmina, mi vedo qui. Sì, sì, ho un maschio e una femmina che quest'oggi hanno 22 e 19. Sì. E però all'epoca della vacanza ne avevano 8 e 5, quindi piccoli. Era la nostra prima vacanza da soli, in quanto l'anno precedente mi sono separata dal marito, quindi... Ah ok, quindi diciamo era una sorta di neo-viaggio della famiglia praticamente. Sì. E com'è sì, andata Erika? È andata benissimo e tuttora ci ricordiamo di quel viaggio, anche perché abbiamo acquistato un disco e l'abbiamo ascoltato all'infinito. Che disco era? La canzone proprio che identifica quella vacanza lì nell'anno 2000 e andava in voga, Up and Down. Up and Down, che adesso non mi viene in mente come sia, però ti ringrazio. Erika, grazie mille, certo, la discoteca ovviamente. Adoro l'accento triestino, non si capisce niente di come aprono o chiudono le vocali. Andiamo a Bologna, la Tiziana, pronto Bologna? Bologna. Ciao. Pronto Trieste, pronto ciao. Bologna. Ciao Tiziana. Senti, quando è che sei andata in vacanza l'ultima volta o la più bella con i tuoi figli? La più bella con i miei figli, l'unica volta. 4 anni fa siamo partiti con 2 miei figli insieme in fuga da casa. Continuavamo a dire a mio marito, al loro padre, che saremmo andati al mare. Per lui chiaramente andare al mare era nella casa che avevamo in Riviera. Sì. E invece quando siamo partiti abbiamo comprato 2 tende al supermercato e siamo partiti in campeggio. Avete comprato le tende al supermercato? È un bel punto di partenza. Cioè tipo, ma guarda, quella, quanti posti è quella? Sì, 3, quella così. Lì. Dove eravate in campeggio? In Toscana, a Bibbione, direi che si chiama il posto. Bibbione. Oltretutto senza sapere dove stavamo andando, cioè siamo andati lì e poi dopo la mattina uscivamo e decidevamo destra o sinistra. Ma quanti anni avevano i tuoi figli, Tiziana? I miei figli, uno 17 e l'altro ne aveva 11 o 12. E cosa hai imparato di loro in quei giorni? È stato bellissimo perché ci siamo trovati come 3 cigni, perché in realtà abbiamo incontrato paesi che non sapevamo che esistessero, che non sapevamo dove erano, cioè Volterra io non sapevo che esistesse, ma non sapevo esattamente dove fosse, e ci sono trovata dentro e loro erano dentro con me in questa avventura che nasceva di giorno in giorno. Tiziana, perché... io ti ringrazio e ti faccio andare via da quella strada dove ti trovi, perché ho paura che ti investano da un momento all'altro. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao. Ciao, grazie. C'è un'altra telefonata. Camilla. Pronto, Camilla? Pronto, ciao Matteo. Ciao. Da Parma. Da non Parma. L'ho precisato nel messaggio. Hai fatto benissimo. Allora, niente, no, la mia avventura risale con tuo figlio più o meno, esatto, diciamo 12 anni fa, forse anche qualche anno in più. Sì. E era già stata organizzata con mio marito e il bambino, dovevamo fare una settimana bianca a Campitello Val di Fassa. Sì. All'ultimo momento, purtroppo per motivi di lavoro, mio marito non riusciva ad unirsi alla gita da forfè. C'è stata una settimana da panico della sera, che mia madre, mia suocera, i vari conoscenti, ma cosa vai da sola col bambino? Panico totale. Quanti anni aveva lui, Camilla? Quanti anni aveva? Dunque, Davide all'epoca avrà avuto 8 anni più o meno, era elementare. Quindi non poteva proprio darti una mano, insomma, se succedeva qualcosa. Però il sostegno è stato importante, guarda, ti dirò, anche perché avendo la fortuna che mio marito Andrea comunque sosteneva la nostra idea di partire anche in sua assenza. Ovviamente eravate agevolati. Tutte le paure, al sabato mattina carico la macchina, lo vado a prendere a scuola, lui monta, carico come una sveglia perché lui piace molto sciare, e niente, abbiamo fatto questa avventura sull'autostrada del Brennero col cuore che batteva ai 2000, perché comunque tutte le varie voci. Certo, diciamo che la settimana di avvicinamento, Camilla, la settimana di avvicinamento aveva aiutato a creare questa tensione, perché se tutti cominciano a dire non andare, ma dove vai? Perché uno si immaginava già il classico incidente con tutti che dicevano te l'avevamo detto. Ovviamente, certo, guarda, anch'io me lo vedevo già adesso, Camilla. Fortuna che stai bene e che è tutto a posto, perché già temevo che mi raccontassi. E poi niente, abbiamo fatto un incidente. No, per cui guarda, è andato tutto bene. Ultimo ostacolo era la rampa ghiacciata per accedere al residence, superata quella, mio figlio è esploso in un applauso che sembra avesse vinto il Gran Premio di Formula 1. Guarda, Camilla, e la lacrima non scende a te, ma un pochettino scende idealmente anche a noi. Quanti anni ha adesso tuo figlio? Adesso mio figlio ha 21 anni ed benissimo. È negli Stati Uniti. E quindi si vergognerà tantissimo di questo. Cosa fa? La strada si è allontanata. Cosa fa negli Stati Uniti? È negli Stati Uniti, studia, è iscritto all'università, sta facendo l'università a Baltimora. E quanto ti manca, Camilla? Ma manca parecchio, ti dirò, però a vederlo soddisfatto e contento, appagato della scelta che ha fatto sui collegamenti Skype, diciamo così, che la solitudine, il vuoto che ha creato. Certo, è riempito. Allora, lo contate su Facebook? Siete amici su Facebook? No, non sono iscritta a Facebook. Ah, guarda, vabbè. Basta Skype. Basta Skype. Grazie. Però a vederlo contento, siamo contenti anche noi. Guarda. Camilla, grazie mille. Grazie a te, Matteo. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Tanto. 349-238-6666, l'ultimo messaggio di oggi. Ciao Matteo, ho preso per la prima volta l'aereo per accompagnare mio figlio a una gara di triathlon. Finalmente il triathlon, no, finalmente l'aereo. Vi annuncio quello che succede domani. Domani è una puntata particolare di Voi Siete Qui, che inizia di fatto una sorta di nuovo filone del programma, perché una volta al mese, grosso modo, a scadenza più o meno regolare, avremo una piccola novità di questa stagione, che è un live musicale dal vivo qui in studio a Radio 24 con un gruppo o un cantante che verrà a trovarci, che musicherà la storia della giornata, con cui faremo 4 chiacchiere e soprattutto suonerà dal vivo. Domani la prima di queste puntate, inaugurata da Iperturbazione, che sono un gruppo rock, indie rock, indie rock pop. Domani lo chiedo a loro. Di Torino sono bravissimi, se non li conoscete cominciate a cercarli in giro, altrimenti li ascoltate domani alle 16 qui in diretta qui per Turbazione per i Live at Voi Siete Qui. Manco fossimo la BBC o la NPR, però lo chiamiamo così, direi. Live at Voi Siete Qui. Io ringrazio Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e Margherita Hina. Ringrazio, anche se non era qui con noi, Luca, nel senso che non era qui con noi inteso presente al telefono. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Patrizia, telefono da Monza. La storia di domani è la mia. Si parla di un'emozione che mi ha procurato una telefonata improvvisa insieme al ricordo della prima musica dei Beatles. Questa è la mia storia e io sono qui.